Quindi siete supine, con le gambe allungate, in alto verso la parete dietro di voi, il braccio che si allunga e si appoggia completamente a terra con più facilità. Se non riuscite a tenerlo completamente in alto appoggiato a terra, in una via di mezzo tra braccia in fuori e in alto, e immaginate che vi prendo per il polso di questo braccio e ve lo tiro. E lasciate andare. E continuate, allungate e lasciate andare. E osservate cosa succede nel corpo quando io vi tiro per il polso e il braccio. Il movimento di una parte è sempre il pretesto per muovere tutto il resto. Quindi cosa succede nel tronco, nel bacino, nelle gambe, quando io vi tiro per il polso del braccio che è in alto. Se lasciate passare il movimento, vi accorgerete che il lato del torace del braccio che è in alto, quando io vi tiro per il polso, si allunga. Quindi è come un ventaglio che si apre da quel lato, mentre l'altro si accorcia. Esempio, siete col braccio sinistro in alto, vi tiro per il braccio sinistro e il lato sinistro del torace, le costole si aprono a ventaglio. E continuate, allungate e lasciate andare. Allungate e lasciate andare. E osservate se continuate a respirare, come tenete la bocca, gli occhi. Ok, adesso mettete il braccio lungo il fianco e piegate la gamba opposta. Chi aveva il braccio sinistro in alto piega la gamba destra e viceversa. Gamba piegata con la pianta del piede appoggiata. Piede largo come il bacino e come abbiamo fatto altre volte, premete il piede sul pavimento come se foste sulla sabbia e voleste lasciare l'impronta del piede. Quindi premete il piede e lasciate andare. Premete e lasciate andare. Vi accorgerete che quando premete il piede, l'anca corrispondente si solleva. Quindi premete il piede e lasciate che l'anca si sollevi. E osservate se riuscite proprio a pensare e poi a sentire, a percepire il movimento in diagonale che passa dalla pressione del piede attraverso l'anca che si solleva fino alla spalla opposta. Quindi premete il piede e lasciate che questa spinta arrivi fino alla scapola e alla spalla opposta. E continuate piano piano. E osservate come respirate, come tenete la bocca, gli occhi, se ci sono delle parti del corpo che potete lasciare andare di più. E che invece fate partecipare al movimento anche se non serve. Bene, adesso mettete il braccio opposto in alto, appoggiato per terra. In alto o a V, via di mezzo, tra in alto e in fuori, quel che potete verso l'alto, in modo che però tutto il braccio stia appoggiato, gomito incluso. No, il braccio opposto. Se avete la gamba destra piegata, avete in alto il braccio sinistro. E adesso il braccio, l'altro braccio è lungo il fianco. E adesso di nuovo premete il piede sul pavimento, lasciate che l'anca si sollevi e che il movimento passi in diagonale fino alla scapola opposta. E vi accorgerete che succede qualcosa. Quindi continuate a farlo, premete il piede, lasciate che l'anca si sollevi, che il movimento arrivi fino alla scapola opposta ed osservate cosa succede nel braccio. Si allunga. Il braccio si allunga. E continuate, premete il piede. E questa volta, invece di pensare che io vi tiro per il polso, pensate che il braccio viene allungato e spinto dalla pressione del piede. Questo movimento, facendolo partire dal piede, vi aiuta piano a rendere più libero il braccio e la spalla. Quindi ve lo potete fare anche a casa quando ne avete bisogno. Osservate se tenete le dita delle due mani morbide o se sono contratte. Come tenete la bocca? Se state respirando. Continuate, premete il piede che fa sollevare l'anca e dall'anca la spinta passa in diagonale fino alla spalla e al braccio opposto. Chi viene così spinto ed allungato senza fatica. E poi riposate, allungate le braccia e le gambe e osservate come appoggia il lato destro e il lato sinistro. Osservate le differenze di un braccio nell'altro, ciascuno mosso quello col quale si trovava meglio. E osservate mentre vi riposate l'appoggio a terra. Se c'è qualche minima differenza. Dopodiché ripiegate la stessa gamba e rimettete lo stesso braccio in alto. Gamba opposta a braccio che allungate, lo stesso braccio di prima. E ancora una volta premete col piede, fate passare il movimento lasciando che l'anca si sollevi e che la spinta Passi fino ad arrivare alla scapola e al braccio opposto. Palmo della mano in su. Osservate quanto sollevate l'anca, il bacino, e se l'altra parte del bacino sta appoggiata a terra o se le inarcate. Quando premete col piede opposto al braccio, si solleva l'anca corrispondente e si ruota come per girarsi sul fianco dall'altra parte. E quindi sentirete che la gamba che è allungata si ruota in fuori. E man mano che lo fate, vi accorgerete che la gamba allungata si ruota in fuori, si allunga in basso, e il braccio in alto si allunga in alto. Quindi il lato che è con gamba e braccio allungato si allunga ancora di più. Osservate, come dicevo prima, cosa succede nelle costole del lato del braccio che va in alto. Vi accorgerete che le costole da quel lato si aprono, come fosse un ventaglio che si apre. Ok, continuate a farlo e man mano osservate se la testa fa qualcosa. E se la testa fa qualcosa, cosa fa? Svolta. Perfetto, si ruota dalla parte del braccio allungato o dall'altra? Dalla parte del braccio allungato. Ok, allora continuate a farlo guardando verso la mano del braccio allungato in alto. E vi accorgerete che per guardare alle dita e alla mano del braccio che va in alto non solo si ruota, ma anche si flette un pochino indietro. E continuate piano piano piano a premere il piede in modo che si sollevi l'anca, che fa arrivare il movimento in diagonale alla spalla e al braccio opposto e fa sì che la testa guardi alla mano del braccio allungato in alto. Lasciate che l'anca della gamba piegata, quella opposta al braccio in alto, si sollevi. Evitate di tenerla appoggiata, ma sollevatela come per rotolare sul fianco opposto. Quindi premete col piede e l'anca si solleva. Per esempio, se avete la gamba destra piegata, lasciate che l'anca destra si sollevi. E vi fermate e allungate le gambe e le braccia. E osservate ancora una volta il modo nel quale siete sdraiati a terra. E ancora una volta piegate la stessa gamba di prima e mettete lo stesso braccio di prima in alto, appoggiato per terra, in alto o a V, a seconda di com'è. Riuscite a appoggiarlo completamente, gomito incluso, senza piegarlo, quindi va braccio piegato. Eh sì, va sempre più in su, infatti, è questo il risultato della lezione. È questo che voglio. Grazie per averlo detto. Bene, adesso premete sempre con il piede opposto al braccio allungato, lasciate che l'anca, il bacino si sollevi, guardate come prima con la testa alla mano del braccio allungato, e questa volta con la testa guardate verso il braccio che viene giù. Piano piano. Sollevate l'anca opposta al braccio allungato e guardate alla mano che va in giù. Metteteci un attimino di tempo per coordinarvi, ma quindi la testa si gira dalla parte dell'anca che si solleva. E adesso tornate a guardare il braccio che va in su ed osservate come viene. Premete sempre col piede opposto al braccio, lasciate che l'anca si sollevi e che la testa guardi verso il braccio, la mano allungata in alto e che la spinta parta ancora una volta dal piede. Sentite la differenza dopo averlo fatto guardando al braccio come in basso. E poi vi fermate e allungate le gambe e le braccia e riposate. E dopo che avete osservato se c'è qualche piccola differenza, che vi siete riposate, che avete osservato come e se respirate, ripiegate la stessa gamba di prima e rimettete lo stesso braccio di prima in alto appoggiato per terra. Palmo in su, palmo del braccio in alto in su. Ancora una volta premete col piede e spingete in modo che l'anca si sollevi e il braccio in alto sia spinto ed allungato. E ancora una volta lasciate che tutto il corpo partecipi, che la testa guardi alla mano del braccio in alto e come dicevamo prima osservate se quando premete il braccio si allunga in alto e la gamba allungata si allunga in basso. Quindi se tutto quel lato si allunga. Ed ora, quando fate questo movimento, contemporaneamente allungate il braccio che è lungo il fianco verso il piede. Quindi premete il piede della gamba piegata, allungate il braccio in alto, la testa guarda la mano e il braccio in alto e contemporaneamente, mentre il braccio in alto si allunga in alto, il braccio lungo il fianco si allunga verso il basso. osservate cosa fa la testa se oltre a girarsi, a ruotarsi, si flette un po' indietro. Ok, allungate braccia, gambe, riposatevi, osservate se ci sono differenze nel modo nel quale state sdraiati, dopodiché allungate il braccio opposto, non quello di prima ma l'altro, quello diciamo meno facile. E cominciate ad allungarlo immaginando che io vi prenda per il polso e ve lo allunghi. Può essere che in questo braccio il range di allungamento verso l'alto, che può essere a vita, braccio fuori, braccio alto, sia un pochino più verso fuori, non vi preoccupate. Tenete il braccio appoggiato con il palmo in su. E cominciate a immaginare che io vi prenda per il polso e vi stia tirando in modo da allungare il braccio. E poi lasciate andare. E osservate come lo fate e fin dove passa il movimento. Se solo nella spalla, nella scapola, oltre che nel braccio, o se passa un po' anche lungo il corpo. Allungate e lasciate andare. Immaginate che vi prenda il polso e poi vi lascio andare. Vi tiro e poi lascio andare. Senza sforzo. Respirando e osservando se riuscite a fare il minimo movimento col minimo sforzo. Senza coinvolgere muscoli che non servono. Massima efficienza, minimo sforzo. Ok, adesso mettete il braccio lungo il fianco e piegate la gamba opposta. Pianta del piede appoggiato a terra, il ginocchio verso il soffitto e iniziate a premere il piede per terra, come dicevo prima, come per lasciare l'impronta sulla sabbia, e poi lasciate andare. Premete e poi lasciate andare. Quando premete il piede, lasciate che l'anca corrispondente si sollevi e quindi il bacino si gira a ruota dall'altra parte. E man mano che premete e l'anca si solleva, osservate se percepite, sentite il movimento passare in diagonale fino alla scapola e alla spalla opposta. Continuate a premere il piede, permettendo all'anca di sollevarsi. Sentirete che la gamba allungata ruota in fuori quando premete il piede. Perché sollevate l'anca? E il movimento piano piano piano arriva in diagonale alla spalla opposta. Che per chi ha la gamba destra piegata è la sinistra e per gli altri il contrario. Ed ora mettete il braccio posto in alto, appoggiato per terra, con il palmo in su. Tutto il braccio è appoggiato, trovate una posizione comoda tra braccia fuori e braccio in alto. L'ideale è braccio in alto, la realtà è mettere il braccio in modo che appoggi completamente tutto per terra, quindi una via di mezzo tra fuori e alto. E cominciate a premere il piede opposto e a spingere in modo che il movimento ancora una volta passi in diagonale e arrivi alla spalla opposta. E di conseguenza, spingendo in su la spalla opposta, fa allungare in alto anche il braccio opposto. E continuate piano piano. Lasciate che il piede si prema, quindi fa sollevare l'anca e di conseguenza il braccio opposto si allunga in alto e la gamba allungata, quella opposta, si allunga in basso. Quindi tutto il lato opposto si allunga. Osservate e vi accorgerete che anche il torace si apre. Le costole si aprono a ventaglio dalla parte del braccio in alto. E continuate piano piano col palmo della mano verso il soffitto ad allungare il braccio, anzi il braccio viene spinto dal piede opposto che proprio gli dà una spinta verso l'alto e la gamba allungata si allunga verso il basso. E vi riposate un po', allungate le gambe, le braccia. osservate come li percepite sul pavimento, come respirate. Come tenete la bocca? Ed ora piegate di nuovo la stessa gamba, quella dell'ultimo lato, e rimettete il braccio posto in alto. Palmo in su e cominciate ancora una volta a premere con il piede sul pavimento. Quando premete il piede sentirete che la stessa anca si solleva, che la gamba opposta, quella allungata, ruota in fuori, mentre il braccio della gamba allungata si allunga in alto. Quindi tutto il lato di braccio e gamba allungato si allunga ancora di più. Costole incluse, torace incluso. E la testa e gli occhi guardano alle dita della mano del braccio in alto. E osservate come si organizza tutto il corpo, il collo e il torace per fare questo movimento. Non è solo il collo che si muove e la testa, ma anche il torace e la schiena. E riposate un po'. Osservando com'è l'appoggio del corpo adesso e delle spalle e delle braccia. E ripiegate la stessa gamba e rimettete lo stesso braccio in alto, il secondo lato, perfetto. Ed ora di nuovo premete il piede, fate passare il movimento in diagonale, premendo, lasciando l'impronta, lasciando che si sollevi il bacino e si allunghi il braccio opposto, ma questa volta guardate verso il braccio che va in giù. Se per esempio premete il piede destro e sollevate l'anca destra, la testa gira verso destra, guardando verso destra. e osservate se state respirando. E poi ritornate a guardare alla mano del braccio che è in alto. Prendete il piede opposto e piano piano tornate a guardare il braccio che è in alto. Si allunga tantissimo. Vero? Sì. Una lezione favolosa questa per le braccia e le spalle. Davvero, quando avete le braccia e le spalle contratte, potete farlo anche a casa, tanto non è necessario fare tutta la sequenza, l'importante è ascoltare come ci si muove e come passa il movimento dal piede al braccio. E riposate un po'. Piegate la stessa gamba e mettete lo stesso braccio in alto. Continuate a prendere con il piede della gamba piegata, sollevate la stessa anca, lasciate che il braccio in alto opposto si allunghi, che la testa guardi alle dita della mano del braccio allungato e contemporaneamente allungate il braccio che è lungo il fianco verso il basso. Mentre il braccio in alto va in alto, la testa guarda le dita delle mani, il braccio lungo il fianco va in basso verso il piede della gamba piegata. La testa guarda verso la mano che è in alto, gli occhi guardano verso la mano che è in alto e la mano lungo il fianco, mentre l'altro braccio va in alto, quello che è lungo il fianco va verso il basso. Un braccio si muove sul prolungamento dell'altro, diventa un movimento unico di un braccio che va in su e dell'altro che va in giù, delle due braccia che si allungano. E vi fermate e allungate le gambe e le braccia. Sì. Dopo fera. Bene, mettete il primo braccio, quello più facile da muoversi, in alto, appoggiato sul pavimento. Immaginate ancora una volta che io vi prenda per il polso e allungatelo, poi lasciate che io lascio andare. Palmo in su, palmo della mano in su e di nuovo allungate il braccio e lasciate andare. E osservate come passa adesso il movimento lungo il braccio e in tutto il corpo. Come si muove il lato del braccio allungato in alto. Se anche tutto quel braccio si allunga. Si allunga tutto dalla parte del braccio. Certo. Non passo dall'altra parte. No, infatti. Perché adesso siete con le gambe allungate. Quindi vi accorgerete che se per esempio avete il braccio destro in alto, la parte destra del torace va in fuori a destra e la gamba e il tallone destro si allungano verso il basso. E continuate, immaginate che io vi prendo, che vi prenda per il polso e lascio andare. Mi tiro via a lungo e lascio andare. E adesso mettete questo braccio lungo il fianco e provate a fare la stessa cosa con l'altro. Gambe allungate, l'altro braccio in alto. Immaginate che questa volta io vi tiri questo. E osservate se in tutto questo respirate e com'è la differenza tra i due lati. Benissimo, allungate le braccia e cominciamo ad osservare gli appoggi confrontandoli con quelli dell'inizio, quindi osservando come sono messi i piedi, le punte dei piedi, i talloni, i polpacci. Quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. Poi come è messa tutta la colonna vertebrale, tutta la schiena. Partendo dal coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, come sono messe le vertebre toraciche, le costole. Collo, la testa. E infine osservate come appoggiano adesso le spalle e le braccia. Sono appiccicate al pavimento. E poi lentamente, quando siete pronte, arrotolate su un fianco, vi sedete e vi alzate. E quando siete in piedi, osservate come siete in piedi e provate ad allungare un braccio e l'altro al soffitto.